La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Eccoci qua, ritornati dalle vacanze di Natale, di Capodanno, anche dell'Epifania con la prima puntata della 2017 della Rosa Purpurea. Buon anno quindi, come si conviene alla prima volta che ci si incontra in un anno nuovo, con una puntata veramente molto originale, perché parleremo chiaramente di cinema, delle prime nuove uscite del 2017. Giocheremo insieme con un game di assoluto prestigio, per cui vi dico subito, prendetevi nota del nostro indirizzo di posta elettronica, larosapurpurea@radio24.it. Vi dico anche che l'oggetto del nostro gioco sarà Alfred Hitchcock, e quindi preparatevi perché dovrete indovinare alcuni film di Alfred Hitchcock, e non sarà facilissimo. E Boris Sollazzo sarà con noi fra poco per chiacchierare appunto di questi primi quattro film in uscita in questo nuovo anno 2017, ma anche per analizzare un po' l'andamento generale della competizione del botteghino di Natale e Capodanno, soprattutto sotto la chiave dei cosiddetti cinepanettoni o comunque commedie popolari, che sono stati molto oggetto di dibattito durante le ultime settimane. Troppi, usciti molto spesso negli stessi giorni, a dividersi lo stesso pubblico e anche con una qualità a volte discutibile. Quindi tutto questo per chiederci se questo genere è morto, morirà mai, potrà essere visto con una chiave diversa. Lo faremo fra poco con Boris Sollazzo. Io però prima voglio salutare e ringraziare per essere qui con noi un artista, una musicista, Alessandra Novaga, che abbiamo invitato qui alla Rosa Purpurea perché ha fatto un disco, tra l'altro in vinile, e a quelli che non hanno più 20 anni come me la cosa crea ancora una certa emozione, tutto ispirato ai film di Fassbinder. Fare musica, inventare suggestioni musicali sulla base di un grandissimo autore, super prolifico, scomparso troppo presto, ma seminale come non mai, ci ha lasciato tante eredità e ha fatto crescere tanti registi. Alessandra, ciao, grazie per essere qui con noi. Grazie. Allora, com'è che ti sei trovata in questa vicenda, insomma? In questa vicenda bizzarra. Mi sono trovata in questa vicenda perché Fassbinder è un autore che io seguo da quando ho 17 anni. Il primo film l'ho visto a 17 anni e appunto come te ne sono passati di anni da allora. Ed era molti anni che mi girava in mente questa idea, perché io ho sempre amato anche molto le musiche che sono state scritte per i suoi film, tutte composte da Per Raben, e mi piaceva l'idea di fare un lavoro alla fine non solo intorno a queste musiche, ma intorno, come dicevi tu, a delle suggestioni musicali dei film. E questo lavoro si chiama, è uscito questo disco in vinile che si intitola Fassbinder Wunderkammer, e quindi insomma lo potrete cercare, poi ne parleremo e intervisteremo Alessandra più tardi, e soprattutto Alessandra ci regalerà a ogni ingresso di blocco della Rosa Purpurea una piccola suggestione dal suo disco qui dal vivo nello studio di Milano della Rosa Purpurea. Insomma, tanta carne al fuoco per iniziare bene il 2017, a partire dal saluto. L'abbiamo lasciato Babbo Natale, ci aveva detto anche oh oh oh, mi ricordo bene, nell'ultima puntata dell'anno, e invece non ti chiedo di salutarci come la Befana, caro Boris, ma ben ritornato e buon anno. Buon anno. Eccoti. Allora, non avevi il saluto della Befana, lo sapevo, ti trovavo un po' così, ecco, sulla Befana. Come saluta la Befana? C'è un modo di salutare la Befana? No, non lo so. Buona Befana non tra l'altro è passata, quindi insomma non è andata via. Zucchero o carbone per Boris Sollazzo? Boh. Carbone per forza, cioè figurati. No, non ho dubbi. Allora senti, beh, invece zucchero o carbone per i cinepanettoni? Ma dipende poi che cosa intendiamo con cinepanettoni. Direi carbone, ma perché hanno finito lo zucchero, nel senso che in 5 c'era ben poco da tirar fuori qualcosa di dolce. Poi basta vedere Siani che arriva il 1° gennaio e incassa in 5 giorni quello che loro faticosamente avevano fatto in 2 settimane tutte e 5. Quindi la verità è che non è morto il genere, è morto chi pensa a una distribuzione perlomeno sensata. Ecco, anche perché scorrendo la classifica stagionale, quindi parlo della classifica dal 1° agosto, quindi dai film usciti dopo le vacanze, al 5 gennaio, quindi contemplano tutto quello che è successo fino all'altro ieri, insomma, fino a prima della Befana, quindi l'ultima botta può averla data la Befana. Però noi troviamo nelle prime posizioni quest'anno, al primo posto La ricerca di Dory, 15 milioni di incasso, al secondo Animali fantastici e dove trovarli, 14,8, al terzo Pets, Vita d'animali, 13,3, al quarto Inferno, 12-4, al quinto Suicide Squad, al sesto Oceania, il film Disney che ancora può performare perché è ancora nelle sale, al settimo Rogue One, che non ha ancora raggiunto i 10 milioni, si assesterà più o meno su quell'incasso lì, all'ottavo L'Era Glaciale, guardate quanta animazione c'è, al nono Doctor Strange e al decimo Io Prima di Te. Vuol dire che, Boris, non c'è un film, ripeto, chiamiamoli cinepanettoni, commedia popolare, film apertamente comici natalizi, dei 5-6 che ne sono usciti negli ultimi giorni prima di Natale, non ce n'è uno nelle prime 10 posizioni, non della stagione completa, ma della stagione dal 1 agosto a oggi. Mi sembra che sotto il profilo dell'incasso sia una debacle che dovrebbe far riflettere qualcuno. Sì, è una debacle che non è di quest'anno, secondo me, perché l'anno scorso il film di De Laurentiis, diretto da Wolfgang De Biasi, vince di poche lunghezze su quello di Neri Parenti e credo si assesti sugli 8-9 milioni, cioè non arriva neanche in doppia cifra. È un po' che il cinepanettone si è assestato su un budget che è un terzo o un quarto del passato e su un incasso che è molto meno di un terzo, quindi secondo me è proprio cambiata la quota di grandezza di cui si parla. Quello che colpisce di questa classifica, fermo restando che fra 10 giorni secondo me al terzo o al quarto posto troveremo Alessandro Siani, è che cinepanettone o no, in una classifica del genere a un certo punto trovavamo con 20, 25, 30 milioni di euro, 18, 17, una commedia italiana che magari non era il cinepanettone, ma Benvenuti al Nord o Benvenuti al Sud. O Zalone quando c'era Zalone. Quindi invece adesso troveremo probabilmente, forse sul podio, se va bene, o comunque in zona Europa League, volendo mutuare un posizionamento dal calcio, troveremo Siani. Probabilmente è la commedia che si deve ripensare. Non a caso proprio Tozzi, nella presentazione del film di Siani, Mister Felicità, sosteneva che almeno da 2 anni un ciclo del cinema italiano, soprattutto produttivo e distributivo, si era concluso e che andava ripensata proprio la formula della commedia, e loro con Siani, anche con il Lab che fanno con Siani, da cui venne, per intenderci, Troppo Napoletano di Anzanelli, stanno tentando di correre quella via. Se vogliamo, De Laurentiis sta facendo lo stesso con De Biasi e Lillo e Greg, e speriamo che insomma la sconfitta contro Poveri ma Ricchi, in generale i bassi incassi, non lo facciano tornare sui suoi passi. E se vogliamo, Brizzi con Poveri ma Ricchi e Miniero con Non c'è più religione, in fondo non fanno qualcosa di diverso, cioè cercano di portare la commedia a Natale. Probabilmente adesso la commedia dovrebbe spostarsi più a Natale e i cinepanettoni come quelli della Filmauro, che sono diventati film veri, forse potrebbero iniziare a spostarsi un po' più in là, come fa Siani, come fa Zalone. Ecco, infatti devo dire che l'esperimento di Siani, che è uscito più tardi e sta andando bene, ha incassato 2 milioni il primo giorno, ma poi insomma sta continuando a essere fra i primi, e sono convinto che sarà quello che troveremo più in alto poi alla fine, segue poi l'iter distributivo a proprio dei film di Zalone, cioè evitare il Natale, uscire a Capodanno e a quel punto, come dire, cercare un pubblico che magari si è già affrancato dalla distribuzione classica e cerca magari qualcosa, perché ancora il periodo è lungo, fino all'Epifania compresa. Vedremo, ne parleremo anche la prossima settimana, di capire un po' come è andata a finire questa storia. Adesso andiamo in viabilità, sentiamo come vanno le cose sulle strade, perché comunque è pur sempre periodo di rientro da un weekend lungo oppure dalle ferie di Capodanno, e poi cominciamo a sentire i suoni di Fassbinder Wunderkammer di Alessandra Novaga qui in studio con noi, partendo proprio dal primo brano. Ascolterete una clip audio di Karel de Brest, film di Rainer Werner Fassbinder, e poi Alessandra qua in studio ci suonerà dal vivo Frankfurter Overture Out of Tune, fra poco. La rosa purpurea. Do I have charms which may conquer another? And who besides myself has been conquered by Karel's charms? How could I become him? I push up my pajama sleeves to keep them from getting in my way when I jerk off. This simple motion makes a man out of me. Thank you. Alessandra Lovaga, qui nello studio della Rosa Purpurea con Frankfurter Overture Out of Tune. Complimenti Alessandra. Grazie. Sei davvero emozionato con questa suite di chitarra legata al disco Fassbinder Wunderkammer che Alessandra Lovaga ha concepito tutto attorno ai film di Rainer Werner Fassbinder. Abbiamo sentito prima una clip di Karel de Brest. Torneremo a sentire Alessandra e poi a parlarci anche insieme più in là nella trasmissione. Mi viene da dire da musica a musica, perché il primo film di questa settimana di cui vogliamo parlare è Sing, e quindi, come dire, un imperativo, no? Cioè, canta, ed è un film d'animazione, un musical d'animazione, potremmo dire, tutto incentrato però da un grande amore, su un grande amore per il teatro, la storia di un koala, Buster Moon, che si è innamorato del teatro quando era bambino e che al teatro ha dedicato tutta la sua vita e che si trova di fronte invece al tema come salvare il teatro al giorno d'oggi e si inventa, anche un po' per caso, una incredibile gara di canto. If I feel that I could be certain then I would say the things I want to say to... Credevo d'aver sentito cantare. Ah, fa niente. Ragazzi, ascoltate! Restate dove siete, gli sbirri! Attaccate! Fermi, ma di notte! Prendiamoli! Boris, è un film che mi ha molto divertito, devo dire, questo Sing. Ritmo scatenato, montaggio incredibile, personaggi disegnati con, certo, con la semplicità del tratto per i bambini, mutuando, diciamo, un po' i caratteri del talent show moderno, per intenderci, ma anche con un grande amore, con un grande senso del teatro, di ciò che è stato. Mi veniva in mente il personaggio, per chi conosce il musical, Cats, il personaggio del gatto del teatro, no? Che le sa tutte quelle che sono successe in anni e anni, decenni e decenni, sopra quelle tavole. Ecco, il Buster Moon del film diretto da Garth Jennings è quella cosa lì, cioè è la memoria storica di un teatro che si vuole preservare e che invece i tempi moderni vorrebbero vedere un po' sepolto sotto le sue macerie. Eh sì, quel koala, se non sbaglio, è un impresario che racconta anche la crisi di un certo modo di fare spettacolo dal vivo, un padre che gli aveva comprato il teatro con tutti i suoi risparmi, credendo di fare un investimento non solo sulla passione del figlio, ma anche, insomma, in generale, è un figlio che invece si trova a dover in qualche modo metterci una pezza, cercare di coltivare la sua passione senza rovinarsi. La risposta che cos'è? Farà rabbrividire ovviamente la nostra artista, ma anche molti di noi. La risposta è il più classico dei talent, una gara musicale tra concorrenti molto particolari, ovviamente Walt Disney, ma prima di lui addirittura e dopo si è inventato il geniale sotterfugio narrativo dell'animale antropomorfo, e qui abbiamo maiali. Abbiamo ogni tipo di... solo forse i cantanti sani non ci sono, ma quelli forse ce ne sono troppi in giro. Appunto, ci sono questi 5-6 concorrenti meravigliosi. Io ho una passione insana, devo dire, per il topo crooner molto cinico che sembra uscito da un film di Sinatra. E sì, è questo, cioè Sing è una serie di idee semplici che secondo me vanno a comporre alla fine un film piuttosto geniale, con la visione che avevano in passato sull'animazione, soprattutto sull'animazione seriale, Hanna e Barbera. Probabilmente erano tecnicamente e artisticamente un passo indietro rispetto ai concorrenti, che non curavano particolarmente l'animazione, non curavano particolarmente la grafica, i particolari in particolare, scusate il gioco di parole, ma puntavano sulla simpatia, sulla potenza dei dialoghi, sulla forza della descrizione narrativa e anche dell'anima dei personaggi. Jennings, che è il regista, che peraltro era stato massacrato dopo Guida Galattica per autostoppisti, torna anche grazie a Meledandri con un film che da lui non ti aspetteresti, e la sua forza, forse come allora, è credere in una storia un po' impossibile, non tanto chiaramente perché è un'animazione per bambini, quanto perché in un cinema così presuntuoso e così snob credere a una storia così semplice è forse l'esercizio più difficile. Una storia di riscatto, una storia in cui appunto uno zoo molto particolare rappresenta una metafora anche piuttosto diretta del nostro mondo. Lui lo fa invece con un candore straordinario, riuscendo a mettere insieme una serie di caratterizzazioni bellissime, penso al maiale Gunther, e alla fine Sing è esattamente quel film perfetto che non ha nulla fuori posto, che ha il ritmo giusto, la parola giusta, il divertimento giusto, e tu ti senti trascinato. Se vi capita di vederlo in sala con dei bambini, scoprirete che a un certo punto tre o quattro di loro si saranno liberati dai genitori e staranno ballando in mezzo alla sala. Se sarete sinceri con voi stessi, per tutto il tempo penserete vorrei essere con loro. Credo che si possa dire poco altro di meglio di un film come Sing in questo senso, e quindi sicuramente è promosso, anche proprio fisicamente promosso. Ah, su questo palco sta per esplodere bomba di Pinky Power. Mi dispiace, non ho alcun controllo su di lui. Ah. Coraggio, puoi farcela. I stay up too late. Got nothing in my brain. Stai bene? Oh, sì, sto benissimo, grazie. E lei? Chissà se sarà un talent a salvarci, ma certo, se il talento esce davvero, se chi ne ha il coraggio di tirarlo fuori, beh, questa è la sfida forse dell'arte, no? Quella di trovare i talenti e tirarli fuori e dare il coraggio a chi non ce l'ha di essere se stesso, proprio anche nell'esporlo il proprio talento. È un po' in fondo quello che Sing cerca di raccontare. A questo punto noi giochiamo insieme, è arrivato il momento di giocare insieme. Vi ho appena annunciato un gioco davvero di alto livello, giochiamo con Alfred Hitchcock. Il tema è indovinare due film che vi proporremo, di cui vi proporremo una breve traccia, a cominciare da questa. E allora, se avete indovinato di che film si tratta, scriveteci alla rosapurpurea@radio24.it con il vostro indirizzo, come sempre, per provare a vincere, beh, non ve lo dico, un regalo che riguarda Hitchcock molto molto grosso, che sveleremo alla fine di questa puntata. Però attenzione, si vince se si indovinano tutti e due i film, quindi rimanete in ascolto perché più tardi vi faremo ascoltare un'altra traccia. Adesso invece, dopo aver dato la linea alla regia, torneremo insieme qui in studio con Alessandra Novaga, con Fassbinder Wunderkammer, con un altro brano. Qui siamo nello sperimentale puro, perché Alessandra ci farà ascoltare sulla clip di Veronica Voss, anzi, per pronunciarla bene, film del 1982, il penultimo film di Fassbinder, il brano omonimo, suonando proprio sull'audio del film. Saranno minuti di assoluto livello, ne parliamo fra poco. La rosa purpurea. Hier spricht Veronika Voss. Wie? Veronika Voss. Aber das macht doch nichts. Nein, ich wollte mich nur erkundigen, wann der Wagen hier sein wird. Wie? Der Wagen, der mich abholen soll, natürlich. Ach bitte, sparen Sie mir Ihre... Ist dort die Aufnahmeleitung? Hier spricht Veronika Voss. Veronika Voss. Quello che si compie qui con Alessandra Lovaga è un vero prodigio, mischiare appunto le parole, le avete sentite, di Veronica Foss, il penultimo film di Fassbinder. Qualcuno l'ha definito un po' il suo Sunset Boulevard in questo senso, con il suono di questa chitarra straordinaria suonata con l'archetto da Alessandra Lovaga, che è qui nostra ospite per questo disco appunto su Fassbinder, di cui parleremo fra poco. E intanto noi andiamo avanti però con l'attualità, e mi viene da fare una battuta facile, da Fassbinder a Fassbender, considerato che parliamo di Assassin's Creed. Pensate che tipo di volo pindarico stiamo mettendo insieme. Parliamo di Assassin's Creed, ancora una volta l'operazione è dal videogame al grande schermo. Sentiamo. Il tuo sangue non ti appartiene, Cal. Appartiene al credo. Tu sei l'unico rimasto che può rivivere la vita del tuo antenato. Sei un assassino. Mi sento diverso ora. Potrò insegnarti a controllarle e salvare il mondo. È nella tua mano, Rakal. E adesso, pioniere, combattiamo. E allora, Boris, dicevamo appunto l'operazione dal videogame al grande schermo è ormai un'operazione che vede almeno uno o due film all'anno effettuare questo tipo di salto. C'è voluto tanto tempo, cioè sono molto spesso videogame molto affermati che finalmente, vi viene da dire, se uno è almeno appassionato di quel genere, trovano la via del grande schermo. E allora ti chiedo intanto di questo Assassin's Creed com'è andata l'operazione in sé, ma anche perché ci vogliono tempi così lunghi rispetto alla filiera solita dei nostri tempi moderni, no? Un successo di oggi diventa film domani o al massimo dopodomani. Ecco, qui magari ci sono 10 anni di vendite boom in tutto il mondo di un videogame prima di arrivare al film. Beh, i tempi lunghi derivano soprattutto, al di là delle difficoltà produttive, dal fatto che i videogiochi sono arrivati a un tale livello di perfezione anche stilistica che portarli al cinema non è più un farli salire la scala, ma insomma è il cinema che deve arrivare a quel livello là, cioè deve riuscire a sostituirci o almeno ad affiancarsi nell'immaginario a quel tipo di racconto, cioè chiunque insomma usi qualsiasi tipo di console di ultima generazione sa anche che ormai il livello di quella che chiamavamo un tempo grafica e che adesso è proprio l'immagine in movimento è a livello cinematografico, e così vale per la narrazione. Quindi in questo senso fuori dagli snobismi bisogna valutare questo. In questo caso poi noi ci ritroviamo anche con un nell'ambito del genere con un esperimento molto nuovo, che è quello di prendere un cast da film d'autore, cioè Michael Fassbender, Marion Cotillard, ma anche Rampling e Irons, e portarlo a raccontare un'opera appunto che viene da un game e che si rivolge comunque ai gamer più appassionati. Ancora più forte la scommessa è se poi ci metti un regista come Justin Castle, che è stato preteso da Michael Fassbender per quello che è un primo capitolo e che aveva fatto con lui e con Marion Cotillard proprio Macbeth. E voi mi direte: che c'entra Shakespeare con Assassin's Creed? Vi dirò più o meno tutto, perché lo affrontano con quel criterio là. Il Macbeth di Kurzel era di fatto un videogioco scritto da Shakespeare, e qui siamo più o meno dalle stesse parti. Kurzel utilizza tutti i pregi e i difetti che ha. Non ha nessun interesse, nessuna passione per la complessità della trama, neanche per spiegare quella complessità della trama, anzi più si va verso i territori meno credibili, qui ce ne sono a iosa, pensiamo ai templari, agli assassini, al fatto che uno è la reincarnazione di un suo antenato che combatteva i templari, che ci sta una macchina che si chiama l'Animum che va a ripescare quella sua parte dell'anima, insomma di non credibilità ne troviamo a bizzeffe. Lui si rifiuta semplicemente di spiegarla, cioè te la mette là, ed era quello che faceva con Macbeth. Quello che gli interessa è la costruzione dei personaggi, il tratteggiamento in particolare dei protagonisti, il dedicarsi in maniera quasi devota a Fassbender e Cotillard e a dare agli altri un ruolo funzionale, per quanto importanti essi siano. Qual è il giudizio finale? Io ho il sospetto che al gamer non piacerà e al non gamer forse farà venire voglia di giocare al videogame. Non so se era questo che si erano prefissi, di sicuro è un'operazione a mio parere esteticamente ma anche contenutisticamente interessante. Forse risulta incompiuta perché faccio fatica a trovare un target per questo film e a livello di qualità sembra brutto, ma da Shakespeare al videogioco Kurzweil continua ad essere un regista molto interessante ma ancora difficile da capire per la direzione che vuole prendere e anche molto incompleto. Però insomma l'operazione secondo me risulta interessante. E allora Assassin's Creed semipromosso dal nostro Boris Sollazzo, quindi film che comunque vale la pena di essere visto. A questo punto noi, prima di passare a Collateral Beauty, giochiamo di nuovo insieme con i film di Alfred Hitchcock. Sembra un segno. Non saprei. Che genere di segno? Non lo so. Non lo sa. Forse una lettera greca. Allora, di che film si tratta? Di quale film del grande maestro del brivido vi abbiamo fatto ascoltare una clip? Scriveteci alla rosapurpurea@radio24.it con il vostro indirizzo, con il titolo di questo film. Magari se volete metterci ancora quello del film prima, se non avete già mandato la vostra mail, perché chi indovinerà i due film per primo avrà un regalo veramente per iniziare molto molto bene questo 2017. Il film lo sveleremo, e anche il regalo, lo sveleremo fra poco, alla fine di questa trasmissione, chiaramente i vincitori la prossima settimana. E allora si va avanti, dicevamo, con Collateral Beauty, film che mette insieme un cast di nomi altisonanti che vanno da Will Smith a Edward Norton, da Kate Winslet a Helen Mirren, diretto da David Frankel, per una tragicommedia, melodramma, sì, forse più melodramma, newyorkese natalizio, su un uomo, un manager di grande successo colpito da una tragedia dalla quale non è più riuscito a riprendersi, a tornare alla vita, e che ha scritto tre lettere. Ma ascoltiamo la clip. Hai perso un figlio, Howard. Howard è un tipo brillante, creativo e carismatico, che un tempo amava la vita, adesso la detesta. Provo a parlargli, cerco un contatto, ma è come se non ci fosse e mi manca. Scrive lettere. A chi? Howard non scrive lettere alle persone, lui scrive alle cose, al tempo, all'amore, alla morte. I bimbi scrivono a Babbo Natale, non per questo sono pazzi. No, è una cosa terapeutica. Boris, il tempo, l'amore, la morte. Howard scrive tre lettere a queste tre entità, chiamiamole, no? Della nostra vita, così importanti. Il tempo, l'amore, la morte. Sono queste tre le entità che alla fine tirano i fili del burattino della nostra vita. Un uomo che non riesce a uscire da questa tragedia, un copione che forse non riesce compiutamente a trovare uno stile, a trovare una chiave interpretativa, perché secondo me nell'allegoria c'erano sicuramente le chiavi per un film interessante, che però forse si realizza solo a metà. Mi chiedo, colpa più del copione, colpa di una regia che non riesce a dare appunto una lettura, colpa di attori che magari non sono sempre perfettamente in chiave? Cosa, secondo te, se la pensi come me, magari invece ti è piaciuto tantissimo, cosa non porta fino in fondo questo melodramma dickensiano un po' alla Frank Capra? Secondo me l'insieme del tutto che hai descritto, nel senso che tu non puoi prendere una grande metafora del Canto di Natale di Dickens, pensare che di mettere in chiave leggera nella sceneggiatura non il sentimentalismo, il sentimento, ma addirittura la commedia, tra l'altro, e questo sicuramente è un merito affidata alla persona da cui meno te l'aspetti, ovvero Helen Mirren, e poi mettere David Frankel, che non è certo l'autore visionario che serve a un film che ambisce ad avere almeno due piani di lettura, cioè quello della finzione che agisce sulla realtà e quello della realtà che appunto è un film alla Frank Capra, un film che percorre i sentieri narrativi di Dickens. È un film, adesso diciamo la suggestione viene anche da Will Smith, che vorrebbe, no, andare dove ha cercato di andare Sette anime di Gabriele Muccino. E già questo è un errore. Ti ritrovi con un cast enorme a cui sono affidati però spesso e volentieri, se non stereotipi, piccole fette di ruoli funzionali. Quindi nel momento in cui poi usi Norton e Weasley, che sono attori di enorme talento, compressi all'interno di un ruolo assolutamente strumentale, in attori che fanno gli attori, insomma è completamente difficile il grado di gestione di tutto questo, e risulta evidente quanto sia un'operazione fatta a tavolino. Il copione era complicatissimo da portare sulla scena, devo dire, forse veramente, adesso scherzando, neanche Fassbinder ce l'avrebbe mai fatta, perché erano troppe le allegorie, erano troppi i piani allegorici e ci si perdeva immediatamente. In più secondo me c'è un problema proprio con Will Smith, che ormai è preda della sindrome Sellers. Sellers, quando scopre di essere un attore straordinario ma che gli fanno fare solo film buffi a tratti demenziali, decide che la chiave per diventare un grande attore è quella di interpretare la disperazione. Per un po' diventa una macchietta, poi per fortuna arriva un giardino. Ecco, da Muccino in poi Will Smith ci prova disperatamente e pensa però che diventare un attore drammatico passi per fare film quasi fantozianamente drammatici. Purtroppo questo invece crea esattamente la situazione inversa. Quindi con Lateral Beauty ha una serie di belle opportunità per fare, secondo me, quattro film diversi. Alla fine non ne esce neanche uno buono, però il problema è quello. E allora questo appunto il film, tra l'altro David Frankel, ricordiamolo, il regista del Diavolo Veste Prada, tanto per dirne una, di Sex and the City, quindi come dire a suo agio con la visione un po' patinata di un cinema un po' glamour, che non sfugge neanche in questo film. Però insomma, come dire, all'inizio un po' di carne al fuoco interessante c'era, trattata un po' in una certa maniera. Adesso noi torniamo a sentire come vanno le cose sulle strade, poi torniamo qui, abbiamo un altro film di cui parlare, il film di Asghar Farhadi, Il cliente, e poi Alessandra Novaga, che ci farà ascoltare un altro pezzo tratto dal suo album Fassbinder Wunder Camera, e poi ci parliamo un po' insieme per capire un po' questa operazione. La rosa purpurea. Noi abbiamo veramente bisogno della stanza. Abbiamo portato le nostre cose, altrimenti... Certo. Passami. Va bene. Passamela. Senta, è qui. Se vuole può parlarci direttamente. Dice che con te ci ha già parlato. Ma cosa ha detto? L'altro ieri avevo fissato un posto. All'ultimo il proprietario ha fatto storie. Devo cercare di nuovo e finché non trovo non riesco a svuotare la stanza. Dica Boba che nessuno tocchi le mie cose, per favore. E allora, avete sentito una clip di Il cliente, il nuovo film di Asghar Farhadi, regista iraniano di Una separazione, tanto per dare il titolo forse più importante, più famoso, della nuova leva iraniana, che è una grandissima scuola cinematografica, è sicuramente uno dei registi più in vista. Ancora una volta le prese con una storia apparentemente che muove da piccole cose, piccole, grandi, importanti cose della nostra vita quotidiana, che ci mettono però di fronte a un grande cambiamento, e tutto questo, come sempre, è una metafora per affrontare i temi dell'Iran di oggi. In questo caso abbiamo Emad e Rana, due coniugi giovani costretti ad abbandonare l'edificio in cui abitano per un cedimento strutturale, cercano, come avete sentito anche nella clip, una nuova stanza, una nuova abitazione, aiutati in questo da un membro della compagnia teatrale in cui i due stanno recitando come protagonisti Morte di un commesso viaggiatore di Arthur Miller. Questo è un po' l'antefatto. Boris, come dicevo, Asghar Farhadi è ormai diventato, come dire, un maestro nel raccontare l'Iran, la società iraniana, partendo da drammi anche grandi per potenza, ma sicuramente molto privati, molto legati alle persone. È solo un modo di girare, cioè di riuscire a raccontare queste storie nell'Iran di oggi, con tutte le censure da superare, eccetera, o è diventato proprio uno stile, quasi un genere cinematografico di questo regista? Ma volendo fare una battutaccia, potremmo chiamarlo cinema da camera o cinema da quattro pareti, perché quando insomma si impegna lo fa all'interno di una casa, in questo caso lo fa all'interno di una stanza, quindi un qualcosa di ancora più piccolo, e poi però lo proietta all'interno di un teatro, però sempre all'interno di uno spazio chiuso. E in questo lui è un maestro, nella separazione era incredibile come la lotta e il vivere quella casa che era diventata una casa da dividere, da straziare nei suoi ricordi, appunto faceva diventare la casa l'Iran e la coppia gli iraniani. In questo senso Ashghar Farhadi non esce dal suo mondo. C'è ancora una coppia che rappresenta appunto il popolo iraniano, e ci sono ancora quattro mura, in questo caso due, quattro mura, quindi due luoghi che rappresentano l'Iran. Incuriosisce come viene quasi da chiedersi, insomma, se sia questo l'unica modalità narrativa e metaforica che ha Farhadi. Interessa poco, perché comunque a mio parere rimane straordinaria. E questo quindi il cliente di Ashghar Farhadi, effettivamente, però a questo punto nella crescita di un regista atteso anche a prove con climi e capacità narrative diverse, proprio per una consacrazione che questo regista sicuramente merita. Grazie Boris, ci sentiamo la prossima settimana. Alla prossima settimana e buon cinema, a questo punto anche buona musica. Eh sì, buona musica, come dice il nostro Boris, perché noi torniamo adesso ad ascoltare, prima e a sentire, e poi Alessandra Novaga, che ci ha fatto compagnia in questa puntata con il suo disco Fassbinder Wunderkammer, pubblicato in vinile, copie limitate, poi vi darò tutti gli indirizzi per andarlo a cercare, tutto ispirato ai film di Rainer Werner Fassbinder. Allora, l'ultimo così assaggio che ci facciamo dare qui dal vivo da Alessandra è quello legato al brano Serenade, che seguirà però una clip di Berlin Alexanderplatz. Wenn ich, bitte unterbrich mich nicht gleich wieder. Wenn ich vielleicht doch. Nee. Allora, Alessandra Novaga con Serenade, che abbiamo voluto associare a un altro, forse all'opera più popolare di Fassbinder, Berlin Alexanderplatz. Allora, Alessandra, è arrivato il momento un po' di parlarne di questo Fassbinder Wunderkammer. Abbiamo detto prima, hai raccontato un po' come ti è nata l'idea, la tua vicinanza proprio a Fassbinder. Come hai trasformato le suggestioni in musica? Cioè, quali sono stati gli elementi dei film che ti hanno fatto scoccare una scintilla. Allora, di sicuro, come dicevo prima, le melodie sono state l'ispirazione fondamentale, le melodie di Per Raben. Tra l'altro, io negli ultimi anni mi occupo prevalentemente di musica, diciamo, cosiddetta sperimentale, quindi per me anche proprio il ritorno alla melodia è stata una cosa quasi ancestrale, e, che ho comunque cercato di rivisitare. Quindi ho praticamente tirato giù a orecchio, si può dire, le melodie che più così mi interessavano dei vari film di Fassbinder, sempre di Per Raben, ricordiamolo, che ha avuto con Fassbinder questo connubio magnifico, come ovviamente essendo Fassbinder un regista non così noto proprio a tutti, è difficile farne un paragone con altri grandi registi più noti, però il connubio Raben-Fassbinder non è diverso da quello che ne so, Lynch, Badalamenti o Fellini, Rota. Quindi sono queste unioni felici proprio di anime che si incontrano e che riescono con due linguaggi però a dire la stessa cosa. Quindi ecco, questa cosa qui in assoluto è quello che mi ha interessato. Poi io, occupandomi anche di altri linguaggi sonori, ho cercato di mettere insieme anche altri elementi in maniera molto rudimentale, però in questo disco non c'è elettronica, non ci sono sovraincisioni di sorta, è tutto fattibile in live. L'abbiamo visto anche qui in studio, insomma, tutto avveniva sotto i nostri occhi, con archetti che suonavano chitarre, amplificatori che facevano uscire voci sulle quali suonare. E immagino, Alessandra, che questa cosa avrà un suo seguito anche dal vivo. Assolutamente, quindi io già ho suonato, in realtà è già stato fatto un live da cui io poi ho cercato di razionalizzare, di formalizzare quello che poi è diventato il disco. E ancora non ho insomma, il disco è uscito, sta uscendo in realtà fisicamente, sarà pronto credo tra una decina di giorni e seguirà ovviamente una serie di presentazioni che ancora non sono, diciamo, ufficiali. Se pensi a Fassbinder, il primo concetto, la prima parola, il primo ideale che ti viene in mente qual è? Amore e sofferenza, direi, nel quale io peraltro devo dire non mi identifico minimamente, non c'è una diciamo una suggestione personale, però di sicuro la cosa che prevale dalle sue tematiche, cioè dalla sua visione del mondo, certo, è molto improntato su questa idea della vittima carnefice, cioè di sempre di un elemento predominante e comunque allo stesso tempo autodistruttivo. Assolutamente, poi non lui, è mai, diciamo che è uno, no? Che è morto a 37, esatto, anni, ne ha provate di tutte, ricordava di aver visto ogni giorno della sua vita 4 film almeno, sì. Era uno che mangiava la vita e si faceva mangiare dalla vita, Fassbinder, e questo ne ha provocato sicuramente la prematura scomparsa, ma ci ha lasciato un'opera ciclopica immensa che sì, chiaramente sì, può essere tutta. Anzi, sai cosa ti dico, Alessandra, che sentendoti oggi mi è venuta voglia di riprendere un po' di DVD di Fassbinder e andarmi a rivedere un po' di suoi film, e penso che questo per un cinefilo sia l'omaggio più bello del tuo disco. Cioè, se questa eredità arriva al pubblico che ti ascolterà, Fassbinder avrà una riscoperta notevolissima. Allora ricordiamo Alessandra che le informazioni anche per il disco e tutto, che è stampato in 300 copie in vinile, perché insomma qui il vinile sta tornando, anzi è tornato in voga per il calore con il quale accompagna i suoni, no? Più che per la perfezione, ma qui parliamo di calore. I siti sono alessandranovaga.com, che è il sito della nostra artista, e anche setoladimaiale.net, sì, che invece è l'etichetta discografica, certo. Ecco, quindi lì potete trovare tutte le informazioni anche volendo prenotarlo. Alessandra, ci hai fatto un grande regalo, grazie per essere stata qui con noi. A questo punto noi tiriamo dritto verso il finale della trasmissione, dobbiamo solo darvi le suggestioni per le visioni in TV di questa settimana, ritrovando un freschissimo Giulio San Giorgio, reduce dalle feste natalizie che sono state sicuramente strepitose. Buongiorno Giulio. Ciao Franco, e un augurio di buon anno a te e ai nostri radioascoltatori. Come stai? Bene. Ci stiamo riprendendo da influenze che invece hanno devastato per mezza Italia durante le feste. Allora, che film abbiamo pescato dal bottino? Io ho voluto con te oggi ragionare su due irregolari, li chiamerei, visto che avevamo Fassbinder che faceva un po' da trade union di questa trasmissione. Ho scelto da una parte Leo Carax e dall'altra Nicolas Roeg, due nomi, come dire, importanti, pesanti, di grande peso specifico, che campeggiano nelle nottate e nelle serate della prossima settimana TV. Sì, come cominciamo con Holly Motors, che è l'ultimo film dell'anno, quello dell'anno 2012 di Oscar Haas, come dicevi, che è veramente un regista maudit dal cinema francese, che non faceva un film dal 1999, ovvero dal tempo di Pola X, che secondo me, forse solo per me, è uno dei più bei film degli anni 90. Qui torna con una storia veramente assurda, la storia di un uomo in limousine che la mattina esce vestito da finanziere e si cambia continuamente per affrontare scene e performance di vita quotidiana, passando da clochard donna a padre operaio, in un vortice di finzione veramente senza soluzione di continuità, come una sorta di, come se lui fosse un uomo in missione per la pura gioia del recitare. Perché fa tutto questo? A un certo punto gli chiedono nel film travestimento dopo travestimento e lui dice semplicemente per la bellezza del gesto. È un film veramente fatto a frammenti che si confronta alla fine con quelli che sono i frammenti di immagini del mondo contemporaneo, dei media contemporanei, e che racconta la morte del cinema, ma lo fa assolutamente magnificandolo. Un grandissimo film. Ecco, invece ricordiamo Holly Motors di Carax, domenica su Rai 3 alle 3 di notte. Sono gli orari di questi film, però ci sono tutti i sistemi di registrazione e poi c'è anche la possibilità di stare svegli. L'uomo che cadde sulla terra, invece, di Nicolas Roeg, andiamo indietro nel tempo su Paramount Channel martedì alle 23. Sì, un anno fa, l'8 gennaio del 2016, ci lasciava David Bowie dopo aver lasciato il suo ultimo bellissimo album, che era un vero e proprio testamento, Lazarus. Noi lo ricordiamo segnalando a un anno di distanza questo film, che è considerato il suo primo ruolo ufficiale al cinema, anche se non lo era esattamente, ed è la storia di un alieno che raggiunge da un mondo lontano, un mondo in depressione, a rischio di estinzione, e che cerca salvezza nella Terra, su questo pianeta d'acqua, come lo chiama, diventando un capitalista di successo, mentre la sua nostalgia e il sospetto intorno a lui salgono. È un film assolutamente erotico, in maniera molto rigorosa, fuori da ogni schema narrativo stringente, veramente allucinato, è una sorta di parabola cristologica, un film di fantascienza ultra pop e un cult da vedere assolutamente, di un grande regista, anche qui come dicevamo prima, malato e veramente barocco, che risponde al nome di Nicolas Roeg, uno dei registi veramente più sottostimati degli anni 70. E allora l'appuntamento lo ricordiamo su Paramount Channel alle 23 di martedì per L'uomo che cadde sulla terra. Giulio, ovviamente ci ritroviamo la prossima settimana, avremo un po' di spazio da dedicare a Giulio San Giorgio e a Film TV per tante novità che bollono nel pentolone del settimanale di cinema, e torneremo anche a recensire il DVD Game. Grazie Giulio. Ciao Franco e saluto a tutti. DVD Game, che questa settimana è stato, e lo diciamo sulle note della sigla, il cofanetto di Alfred Hitchcock Collection, 15 film di Alfred Hitchcock che andranno a chi avrà indovinato i nostri due film di oggi, che erano Sabotatori e Il sipario strappato. E allora adesso andiamo a controllare le mail che ci sono arrivate. Settimana prossima vi raccontiamo chi ha vinto. È stata una puntata davvero speciale questa, che ha aperto il 2017. Noi ci ritroviamo sabato prossimo alle 18 con tutto il cinema che c'è qui alla Rosa Purpurea.